Incontri di Gianfranco Fabi. Tu mi piaci, questa è l'attitudine mia di cantare, cantare per te. Tu mi piaci, ti adoro di Pavarotti. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Maurizio di Rovirant. Buonasera a lei, dottor Fabi. Maurizio di Rovirant è presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza, oltre che presidente amministratore delegato di Rovirant e Associati. Fondazione Italia della Bellezza, una canzone d'amore di Pavarotti, forse è indicativa del fatto che l'amore è verso questa Italia. Che cos'è la Fondazione Italia Patria della Bellezza? Ma diciamo che è il risultato di un lungo pensiero e lavoro intorno all'idea di valorizzare questo paese. Vuole essere un progetto che in qualche modo contribuisce a riposizionare il nostro paese nel mondo. Siamo un paese assolutamente straordinario, unico, amatissimo, molto più amato all'estero che in Italia, e credo che sia venuto il momento di aiutare questo paese per quello che può essere il contributo che un professionista come me può portare e ai compagni che mi accompagnano in questo viaggio, per ridare all'Italia il senso della sua storia, il senso del suo esistere. L'Italia ha uno straordinario destino, secondo me, che è quello di portare bellezza al mondo. E il mondo ha un grande bisogno di bellezza e, come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Abbiamo bisogno di salvare il mondo, abbiamo bisogno anche di salvare un po' l'Italia, forse, in questa fase. Molti problemi ci sono. Ecco, come le è venuto in mente? Da che esperienza è nata il fatto che a un certo punto della sua vita, invece di ritirarsi in pensione, vivere di rendita e magari prendere una villa ai Caraibi, ha detto: beh, impegniamoci in un nuovo progetto. Ma credo che intanto nasce da una professionalità che si è sempre occupata di branding e quindi di immagine, di marchi, di posizionamento delle aziende sul mercato, e quindi questo tipo di esperienza è quella che poi mi ha guidato a guardare il nostro paese come se fosse una grande marca e una grande promessa. Nasce dal fatto che l'impegno civile con gli anni è andato crescendo, che il modo in cui io ho gestito la mia azienda mi ha portato a pensare all'impresa come un'entità civile, un'entità che non solo porta ricchezza, porta un bene economico, ma porta anche un bene sociale, un bene civile, sia a chi partecipa all'azienda, sia al territorio in cui l'azienda incide. E quindi mi sono rimesso a studiare, non sono mai stato un grande studente, e negli anni invece ho capito che tante cose andavano riprese. Ho scoperto l'economia civile di Genovesi al tempo di Napoli nel 1700 e mi sono affascinato all'idea che dentro il nostro sistema di pensiero esistesse in realtà un modo di guardare l'economia che è molto consono al modo in cui le aziende italiane, diciamo gli imprenditori italiani illuminati, guardano alla loro funzione, al loro ruolo. Ecco, non sappiamo valorizzare anche le grandi risorse che abbiamo. Lei ha citato appunto Genovesi, gli economisti del Settecento, che sono stati sopravanzati anche dagli economisti scozzesi, che sono diventati i fondatori dell'economia, ma gli italiani avevano posto le basi molto prima, forse non hanno saputo valorizzare e difendere le loro idee, forse il mondo sarebbe cambiato. Beh, ecco, la storia non si fa con i sei con i ma, però valorizzare le proprie idee è qualcosa che manca all'Italia. Soprattutto credo alla consapevolezza, perché per valorizzare un'idea devi essere consapevole di quello che porti. L'impressione che io ho avuto in tutti questi anni che manca la consapevolezza dello straordinario potere e potenziale che questo paese ha, dato dal suo territorio, dato dal suo saper fare, data dall'incredibile posizione che ha nel mondo. Insomma, un paese che non si riconosce, un paese che sembra aver perso orientamento. Invece siamo un grandissimo paese e mi secca, io amo questo paese e trovo ridicolo che noi italiani si sia i peggiori ambasciatori di noi stessi. Quando un italiano può parlare male del proprio paese sembra che vada a nozze con questa sinfonia. Basta, dobbiamo smetterla. E direi, al di là di quello che stanno facendo i governanti in questo momento, e specialmente Renzi, che è molto su questa onda e quindi molte promesse, molti annunci, direi, ma poi si può discutere il più o meno, certamente c'è positività e voglia di ricredere nel paese. Io questo progetto l'ho cominciato già più di 2 anni fa, 3 anni fa, e ho interpretato proprio questo senso di perdita di opportunità. È come se noi non ci rendessimo conto di avere nel mondo un ruolo, un'opportunità straordinaria. Gli stranieri, quando pensano all'Italia, hanno un brivido nella schiena, per mille ragioni. Noi, quando pensiamo all'Italia, siamo solo poi capaci di sputarci addosso. Allora, dobbiamo cambiare questo. Per cambiare questo lo dobbiamo fare sulla verità, non sulle fandonie, non sulle fantasie. Siamo un paese che ha delle cose straordinarie da dare al mondo. Dobbiamo rendercene conto e metterle a valore. Ecco, ci sono anche molte iniziative positive su questo fronte, molte realtà, pensiamo al FAI, pensiamo al Touring Club, pensiamo a molte associazioni di volontariato che magari fanno fatica anche a presentarsi, che lavorano in questa direzione. Voi come Fondazione d'Italia Patria della Bellezza avete anche un po' la volontà, l'obiettivo di unificare questi sforzi? Assolutamente sì. Non vogliamo fare il lavoro degli altri, però questo è un paese divisivo dove l'aggregazione è sempre difficile, lo sappiamo, sono i tanti campanili che ci hanno sempre diviso. Come giustamente dice, molta gente sta facendo del bene per questo paese, ma tendono ad andare tutti un po' per la loro strada. L'aggregare tutti quelli che fanno questo, che la fondazione ha voluto fare, quindi è diventata una fondazione di fondazioni, che oggi ha dentro un certo numero di fondazioni, potrà averne in futuro molte altre fondazioni o associazioni che si occupano del bene del paese. Metterci insieme, aggregarli, vuol dire contaminarci, vuol dire imparare l'uno dall'altro e trovare una specie di acceleratore delle attività che facciamo. Quindi credo che il tavolo che la Patria della Bellezza offre, la fondazione offre a questi attori, sia proprio quello di poter dialogare insieme, fare progetti insieme per accelerare il processo di valorizzazione del paese. Ecco, che però è un processo di valorizzazione che deve essere anche un po' business. Lei viene dal mondo del profit, ha un'esperienza professionale, ha creato un'impresa di successo, un'impresa che ovviamente continua, anche se se ne occupa un po' meno di prima. Sì, è vero, ma ho pensato appunto che un'impresa civile non può esaurirsi nel suo fondatore, ha un compito altro ed è bello per chi lo ha fatto vedere che la propria impresa continua, si sviluppa, porta benessere nella società in cui uno l'ha creato. Credo che è il più bell'ascito che uno può fare, e in realtà a questo sono arrivato anche lì col tempo. Io sono un piccolo artigiano che è diventato imprenditore, oggi abbiamo più di 80 dipendenti, lavoriamo in tutti i paesi del mondo, quindi è diventato un'impresa e ho imparato a fare l'imprenditore strada facendo, non era la mia educazione di base, ma nel fare l'imprenditore mi sono anche accorto quanto era importante il contributo della gente che ha lavorato con me tanti anni. Quindi nel momento in cui mi sono domandato che qual era il passo che volevo fare nella terza parte della mia vita, mi sono detto devo separare, sapete, mestieri come questi sono mestieri in cui la vita e il lavoro si mescolano totalmente, quindi c'è una coincidenza assoluta tra vita e lavoro, che è bellissimo perché è guidato dalla passione. Però questo diventa anche una gabbia. A un certo punto bisogna dire mi riapproprio della mia vita e lascio che la mia passione lavoratrice diventi anche di altri. Ho conferito il 30% della mia azienda gratuitamente alle persone che lavoravano con me, facendo, credo, il più bel progetto della mia vita, perché ho dato linfa nuova all'azienda, entusiasmo, forza, coraggio, voglia di fare, lungo una cultura che abbiamo costruito insieme, che è quella del rispetto, della passione per la qualità e così via. Quindi è stato davvero una bellissima esperienza, durata alcuni anni, perché è un passaggio che poi, certo, l'ho fatto con attenzione. Ecco, ma in questa prospettiva passare dal mondo del profit di un'azienda che vive per guadagnare, come è giusto che sia, al mondo del non profit, perché una fondazione, mi corregga se sbaglio, non deve avere come obiettivo il profitto se non quello di mantenersi, di crescere, ecco, è un grosso passaggio. Sì, è un grosso passaggio, però devo dire non così complicato, nel senso che è proprio funzione di una fondazione, come giustamente diceva lei, di non guardare al profit, se non a quello che serve per fare i progetti che abbiamo in mente di fare. Ecco, ma in questa prospettiva però è anche una fondazione che vuole aiutare il profit, vuole aiutare il business, vuole aiutare, certo, le imprese italiane, ma forse di questo problema, di come una fondazione di questo tipo può aiutare le imprese italiane a crescere, può aiutare le imprese italiane ad avere un contesto più favorevole in cui svilupparsi, parleremo nella seconda parte del nostro programma. Grazie intanto a Maurizio Di Gobilan, presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Restate con noi, ci sentiamo fra pochi incontri. Ancora allora con Ti adoro di Luciano Pavarotti riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Maurizio Di Robilan, presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza, oltre che presidente amministratore delegato di Robilan e associati. Robilan e associati, un'impresa presente appunto nella consulenza aziendale, nella promozione del marketing del brand, mi corregga se sbaglio, di Robilan, del posizionamento delle aziende, del posizionamento delle aziende, un'azienda appunto che si spiegava di Robilan negli ultimi anni è cresciuta, è diventata un'azienda con presenze internazionali, ma in cui di Robilan ha lasciato in parte la gestione a quelli che erano i suoi collaboratori, condividendo anche le quote azionarie, ed ha deciso appunto di impegnare gli anni della longevità, anche se Di Robilan è certamente tra i giovani, ma degli anni appunto in cui di solito si dedica a vivere di rendita, a impegnarsi appunto in questa fondazione. Una fondazione che ha come suoi obiettivi quello di difendere, valorizzare la bellezza italiana in tutti i suoi aspetti, anche negli aspetti economici. Cosa vuol dire usare la bellezza, valorizzare la bellezza aiutando l'economia? Di Robilan. Allora, direi che lo scopo primo della fondazione è quello di creare, definire quello che noi chiamiamo l'identità competitiva del nostro paese. Quando io dico Italia, patria della bellezza, racconto, è il racconto che dobbiamo fare al mondo, è ciò che ci posiziona nel mondo, è l'elemento con il quale noi siamo capaci di competere meglio di chiunque altro. Faccio un esempio: se io dico The American Dream, l'American Dream è l'identità competitiva degli Stati Uniti. Se si parla di innovazione, ci si volta ad Occidente, l'innovazione è fatta da quel popolo, da quella gente, perché il loro modo di ragionare, il loro modo di comportarsi, le loro pulsioni, la loro cultura è fatta per superare la frontiera, per andare sempre avanti e porsi sempre obiettivi nuovi. Quindi è normale che l'innovazione venga da quella cultura. Se chiudiamo la portiera di un Audi o di una BMW, risuona la Deutsche Qualität. E se le nostre mogli vanno a comprare una lavatrice e vedono una Candy o una Bosch, tendenzialmente, se hanno i soldi, si comprano la Bosch. Perché? Perché pensano che i pezzi siano più resistenti, che il servizio sia migliore e così via. Se vedete uno scudetto rosso con una croce bianca sopra, beh, dovunque sia apposto, il senso di precisione, qualità, attenzione con cui è fatto, vi fa dire: beh, io quel coltellino compro per 20 euro in più, compro quello che c'ha sullo stemmino della Svizzera. Allora, l'identità competitiva è in realtà un'idea che si crea nell'immaginario collettivo. L'immaginario collettivo ha una forza straordinaria e si basa sull'esperienza, non è inventata da un pubblicitario. In effetti l'innovazione degli Stati Uniti è qualcosa che percepiamo sulle nostre mani, nelle nostre esperienze. Tanto vale parlare della Germania nello stesso modo. Quindi credo che se dobbiamo pensare al nostro paese, il possesso e la produzione di bellezza sono gli elementi cardine che ci distinguono nel mondo, ma ci distinguono non solo nel avere bei panorami o meravigliosi monumenti, ma nei prodotti che facciamo tra i prodotti più belli del mondo, siamo inseguiti da chiunque per avere i prodotti che noi facciamo. Quindi esiste una capacità del paese di raccontare la bellezza sotto mille aspetti. Allora, questo vuol dire competitività. Se io riesco a far sì che i nostri cittadini si rendano conto di essere i cittadini della patria della bellezza e si comportino di conseguenza, noi questo paese in 20 anni lo cambiamo dalla A alla Z. Ricordatevi di Peppino Impastato quando parlava della mafia e diceva: la mafia si batte solo con la bellezza, perché è costruire in quel modo, certo, che rende i posti invivibili. Con la bellezza, con la buona educazione, con la capacità anche di essere costruttivi, di guardare le cose in modo costruttivo. Ma su questo fronte non esiste in fondo il marchio del Made in Italy. Il Made in Italy è un marchio riconosciuto a livello internazionale, è anche questo un vantaggio competitivo. Forse lo sappiamo sfruttare non fino in fondo, non in maniera razionale. È un marchio che è diventato quasi un luogo comune più che un punto di forza. Ma non so se lei lo sa, ma è divertente la nascita di Made in Italy. Made in Italy l'hanno coniato i tedeschi per avvertire i loro cittadini che il prodotto era fatto in Italia e quindi si pigliassero le loro responsabilità nel comprare un prodotto italiano. E devo dire, è molto divertente vedere come invece è l'unico marchio di valore che rappresenta la qualità di un paese che davvero però sapete che è la terza voce più cliccata su internet dopo Coca-Cola e Visa, mi pare, per cui insomma ha avuto un successo straordinario. Made in Italy è molto legato al prodotto, alla produzione, va bene, porta dentro a sé però tutta una questione di provenienza che è importante, che noi dobbiamo difendere, ma la bellezza si produce anche con materie che arrivano da altri paesi, con capacità di progettare, poi far fare da altre parti. Bellezza è comportamento, come diceva lei prima, bellezza è tante cose che sono un po' più del Made in Italy. Ha dentro il Made in Italy, è, se volete, il Made in Italy è un'espressione straordinaria di bellezza, ma non vorrei racchiuderlo solo in questo aspetto commerciale, perché ha a che vedere col nostro modo di essere, di percepirci. Cioè un marchio industriale, il Made in Italy, il marchio della bellezza è un marchio che va al di là, che va al di sopra, è un marchio in fondo che pone l'Italia su un livello, non diciamo superiore, ma diverso, e con una grande capacità di rispondere appunto a delle esigenze delle persone, che sono le esigenze poi di una società moderna, che non sono solo le esigenze dei bisogni fondamentali, sono anche le esigenze di vivere meglio. In questa prospettiva c'è anche un aspetto di qualità della vita, assolutamente, di Italian way of life, possiamo dire. Bravissimo, bravissimo. Di nuovo, sono quelle cose che dal mondo vengono a studiare qui da noi, per noi sembra normalissimo. Questo è un po' un nostro limite, noi siamo così viziati e così abituati a quello che abbiamo che non ci rendiamo conto della straordinaria unicità che tutto questo ha e che il mondo si aspetta e che cerca disperatamente. Quindi svegliamoci a questo, perché siamo seduti su un patrimonio inestimabile di cui la consuetudine, l'abitudine, un po' di cecità ci porta a non sapere come sfruttarlo. Noi abbiamo coniato questo marchio che è Italia Land of Beauty, che vuole essere il marchio di promozione del posizionamento del paese. Non vogliamo parlare di qualità di prodotto, ma vogliamo che chi fa prodotto di qualità lo porti nel mondo per raccontare la promessa del nostro paese. Come dicevo prima, il mondo ha bisogno di bellezza, l'Italia la può fornire in maniera straboccante. Ecco, ma in questa prospettiva viviamo anche nell'era ipertecnologica, nell'era della connessione, nell'era dei social network. Che possibilità ci sono per un marchio, che in fondo è una cosa vecchia, vecchia quanto il mondo, di diventare qualcosa di moderno, di qualcosa che può attirare l'attenzione? Ma credo che il marchio è uno strumento, come giustamente dice lei, ed è uno strumento come tanti, e dove lo metti e che cosa racconta. Se porta senso diventa un successo, se tutte le imprese che parteciperanno a questo progetto se lo porteranno sul petto come un segno di, come dire, essere gli alfieri di questo valore, essere davvero i portatori, i testimoni di questa capacità, noi credo che aiuteremo davvero il paese a cambiare la prospettiva su se stesso. C'è più bisogno di raccontare agli italiani quanto vale l'Italia che non raccontargli agli stranieri, lo sanno già benissimo. È che i comportamenti nostri a volte non sono coerenti con le aspettative di chi vede questo paese come un paese straordinario. Allora dobbiamo essere noi i primi. Il marchio serve a raccontare a tutta la cittadinanza nel tempo che sono cittadini della patria della bellezza, che questo è qualcosa che è un impegno e un'opportunità, e quindi è nell'utilizzarlo che speriamo di poterlo davvero far entrare come una specie di mantra nella testa di noi tutti. Ecco, tra i promotori della vostra fondazione c'è la Camera Nazionale della Moda, c'è la Città dei Motori, c'è Cosmetica Italia, c'è la Fondazione Alta Gamma, c'è la Fondazione ILI, Touring Club, la Fondazione Colonie dei Mestieri d'Arte, sono tutte realtà molto presenti. Quali sono le iniziative concrete che questa fondazione sta cercando, sta portando avanti e vuole sviluppare nei prossimi mesi? Allora, i prossimi mesi sono anche i prossimi anni, perché come sapete siamo un po' una startup e quindi dobbiamo fare i conti con lo sviluppo che deve essere evidentemente misurato nelle nostre capacità, ma abbiamo 12 progetti che sono chiari per noi, che hanno a che vedere con la ricerca, perché vogliamo dare al paese la lettura di, per esempio, facciamo una ricerca con GFK negli 8 paesi più importanti per turismo e scambio commerciale, perché vogliamo che gli italiani sappiano come gli altri ci vedono e quindi avere una lettura del paese attraverso l'incontro che gli stranieri hanno con il nostro paese. Un'altra ricerca che reputo molto importante, anzi forse la fondamentale, che facciamo con Prometeia, è una ricerca sull'individuazione di un nuovo settore del PIL. Si tratta dell'economia della bellezza. Noi siamo convinti, abbiamo già visto i primi dati che sono impressionanti, che il valore della bellezza è un valore misurabile di una potenza conoscenza straordinaria. Non voglio rivelare adesso che cosa abbiamo scoperto, lo faremo in una conferenza stampa o in un convegno che faremo più avanti, ma che davvero dice all'establishment e quindi alle imprese, ma alle istituzioni, che questo è un comparto di cui ci dobbiamo occupare con grandissima attenzione. Quindi ricerche da un lato, visto che ci siamo dati 15-20 anni, lavoreremo nella scuola. La scuola è elemento fondamentale per far sì che un paese cambi, e quindi abbiamo due progetti nella scuola: uno che valorizza gli insegnanti nel portare i ragazzi a scoprire le bellezze dei propri territori, bellezze in cui l'intervento dell'uomo è chiave. Un giardino è bello, ma un giardino all'italiana è più che bello, fa vedere, fa capire la capacità del fare degli italiani. Un'altra cosa che credo importantissima è quella della scoperta dei propri talenti. I ragazzi alle medie non hanno un'idea di che cosa faranno. Allora vorremmo portare questi ragazzi a incontrare l'economia della bellezza dei territori, di modo che possano affascinarsi a mestieri che andiamo perdendo e che sono l'anima del nostro Made in Italy. Investire sulle persone, investire sui giovani, investire sugli studenti, cercare di creare un terreno fertile perché la bellezza, insieme alla buona educazione probabilmente, insieme a tanti altri elementi, diventa un modello, in fondo qualcosa in cui faccia capire che questo paese ha tante risorse, ha tante possibilità, ha tante bellezze, e vanno difese anche dal punto di vista di ciascuno. Poi l'insieme delle posizioni, diciamo, dei valori di ciascuno fanno anche quello che possiamo chiamare un po' enfaticamente il bene comune. Assolutamente, sono d'accordo con lei, e ci fa tutti delle belle persone. Ecco, in questo senso possiamo dire che è vicino all'industria, siamo in un momento di, si dice, stiamo un po' uscendo dalla recessione, c'è un po' più di ottimismo rispetto al passato, anche guardando alle capacità, alle potenzialità dell'Italia. Assolutamente sì, però io non mi entusiasmerei dei piccoli dati che ci sono. Certo. Beh, va bene, però pensiamo davvero al valore che abbiamo, perché al di là del fatto che un pochino l'economia riprenda, comunque se riprende noi dobbiamo fare cose che sono molto al di là di questa ripresa. Dobbiamo davvero capire qual è il potenziale che abbiamo da offrire, come le aziende devono imparare a raccontare questa qualità. Noi facciamo prodotti straordinari e non li raccontiamo. La Francia, qualunque prodotto faccia, il mondo intero ne viene a sapere che è il prodotto migliore del mondo. Noi abbiamo prodotti 10 volte migliori e non li raccontiamo, non ne siamo fieri quanto lo sono loro. Quindi orgoglio, ragazzi. Maurizio Di Rovira, possiamo concludere dicendo che è bello occuparsi di bellezza. Assolutamente sì. Grazie dottor Fabi. Grazie a lei. Abbiamo concluso questo nostro incontro. Ringraziamo Maurizio Di Rovilan, presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza, oltre che presidente e amministratore delegato di Rovilan e Associati. Io ringrazio anche Carmelo Loricella in regia e Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it, su cui potete mettere anche i vostri commenti e i vostri giudizi. Grazie, l'appuntamento con Incontri è per domenica prossima.